Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Poi arrivano i momenti, corsi e ricorsi storici, arrivano i momenti più adatti, arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile di nuovo far finta di niente, è più facile guardare il proprio cortile, ma è una cosa che non mi interessa, ma perché mi deve interessare e non mi riguarda. E allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti. Così ha parlato, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la senatrice a vita Liliana Segre, come sapete sopravvissuta ad Auschwitz, che ha dovuto poi avere una scorta per gli insulti, le minacce ancora nei suoi confronti. Oggi ha parlato così al Parlamento europeo, dicendo che ci sono ancora molti che negano l'Olocausto, quelli che, pur sapendo, insomma, si girano dall'altra parte anche quando ci sono questi nuovi rigurgiti nella società, e sappiamo anche purtroppo da noi in Italia. Ci occuperemo oggi, per una volta lasciamo la politica italiana un pochino, diciamo, circoscritta, e invece approfondiamo ulteriormente l'argomento del coronavirus, che sappiamo, insomma, allarma un po' in tutto il mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità domani si riunirà nuovamente per una riunione d'emergenza per capire appunto se è il caso di parlare di emergenza sanitaria internazionale. Per quanto riguarda i nostri connazionali, domani dovrebbe partire un volo dell'unità di crisi della Farnesina per rimpatriare circa 60 italiani che ci sono in Cina. Raggiungeremo un nostro connazionale, un manager modenese che si trova proprio nella città focolaio di Wuhan, e poi sarà ospite anche un'autorità in questo campo, che è il professor Ippolito dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive dello Spallanzani, anche per capire se effettivamente come saranno poi trattati, per esempio, questi italiani che rientreranno, se dovranno fare dei test, eccetera. Ci occuperemo anche, fra le mille altre cose, di Medio Oriente, visto il piano di pace annunciato ieri dal presidente americano Trump insieme a Netanyahu, primo ministro israeliano, che però non è piaciuto ai palestinesi e che ha spaccato il mondo arabo, con tante reazioni che ci sono state, di cui parleremo. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666 è il numero cui inviare via SMS, appunto, WhatsApp, i vostri messaggi, i vostri commenti, altrimenti comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo anche il Twitter durante il giorno per alcune anticipazioni, che è Roby, Linetta Bassa, Giordano. Allacciamo le cinture e partiamo. Coronavirus cinese, sono più di 6.000 contagiati, 132 i morti in Cina. Domani il volo per il rimpatrio degli italiani, no alla quarantena automatica per loro, dice il professor Ippolito dell'Istituto Spallanzani di Roma, che sarà ospite qui Effetto Notte. Politica italiana, l'appello di Fico al Movimento 5 Stelle, stiamo uniti per Conte Premier, domani primo confronto nella maggioranza con il nodo delle concessioni. Medio Oriente, il piano di pace di Trump spacca il mondo arabo, l'Italia apprezza gli sforzi del presidente americano ma ribadisce la soluzione più auspicabile, cioè quella di due popoli e due stati. Brexit, via libera del Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Unione europea. La citofonata di Salvini finisce in un'inchiesta interna dei carabinieri. Whirlpool, la multinazionale, conferma l'addio a Napoli, perde 20 milioni l'anno, produzione avanti fino a ottobre, garantisce il governo. Calcio per la Coppa Italia, in campo Inter-Fiorentina, MotoGP, ultimo anno di Rossi alla Yamaha, divorzio nel 2021, voglio continuare, fa sapere però il campione. Partiamo quindi dall'evolversi della situazione relativa al coronavirus cinese. I morti sono 132, i casi accertati oltre 6.000. Domani partirà un volo della Farnesina per rimpatriare i nostri connazionali residenti a Wuhan. Non è certa la loro quarantena, ma potrebbero essere comunque ospitati in una struttura militare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità promuove la Cina nella gestione dell'epidemia di coronavirus. Ha identificato il patogeno in breve tempo, spiega da Ginevra il direttore generale dell'OMS Tedros, e ricorda che la diffusione del virus oltre confine è al momento limitata. Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi di coronavirus, pari all'1% del totale, e nessun morto, spiega. Intanto si lavora sui rimpatri e per l'Italia saranno saranno a carico dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, in partnership con il Ministero della Salute, le modalità di sorveglianza dei 60 concittadini che rientreranno da Wuhan, con un volo previsto non prima di domani. L'ultima ipotesi è che potrebbero trascorrere i 14 giorni di sorveglianza sanitaria in una struttura militare. Il sistema sanitario in ogni caso è pronto. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale per le bioemergenze. Il Ministero della Salute e le regioni hanno attivato una rete per l'identificazione precoce di eventuali casi e per l'isolamento di queste persone al fine di ridurre il rischio di trasmissione all'interno del paese. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sarà ospite qui Effetto Notte anche per capire altri aspetti e anche per rispondere alle vostre domande, se volete, sul coronavirus. Molti dubbi, c'è anche un numero del Ministero della Salute che è 1500, ma quello per i casi di emergenza. Se volete invece fugare dei dubbi, avete pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per sms e whatsapp. Intanto c'è il quinto caso confermato in Francia, è la figlia della quarta persona che si era ammalata. Nel frattempo si allunga l'elenco delle aziende che bloccano temporaneamente punti vendita e produzioni in Cina come prevenzione al coronavirus. Ultime sono state IKEA, Toyota e Starbucks. IKEA chiude la metà dei suoi negozi in Cina, lo stesso fa Starbucks con oltre 2000 caffetterie e Toyota annuncia il blocco della produzione almeno fino al 9 febbraio per evitare che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora più rapidamente. I motivi: tutelare il personale ed evitare assembramenti, sottolinea McDonald's, che abbassa le saracinesche in 5 città cinesi, mentre Disney chiude il megaparco e il resort di Shanghai a tempo indeterminato e British Airways sospende con effetto immediato tutti i voli da e per la Cina. Per le imprese italiane diffuse su tutto il territorio, meno nella provincia del contagio, la situazione è delicata ma per ora sotto controllo, ci spiega Giampaolo Bruno, direttore ICE a Pechino. L'attenzione è molto alta, non c'è panico, c'è ovviamente preoccupazione, si segue costantemente l'evoluzione della situazione ma non ci sono decisioni drastiche. Sono 1200 le aziende italiane con investimenti in Cina, 300 quelle con stabilimenti produttivi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica italiana, un appello affinché il Movimento 5 Stelle resti unito a sostenere il governo Conte con il PD fino al termine della legislatura, è quello che viene dal presidente della Camera Fico. Ma nel movimento resta la tensione. Il ministro dello sport Spadafora insiste sulla revoca delle concessioni ad Autostrade ma esclude una scissione e parla di una possibile anche leader capo politica donna del Movimento 5 Stelle. Domani a Palazzo Chigi, comunque, primo confronto nella maggioranza dopo il voto delle regionali. I nodi sono soprattutto Atlantia e l'ex Ilva. La citofonata di Salvini finisce in un'inchiesta interna dei carabinieri per capire se qual è stato il comportamento di un maresciallo che avrebbe messo in contatto la donna che ha chiesto l'aiuto di Salvini e Salvini stesso. Capiremo comunque ulteriori dettagli di questa vicenda nel corso di questa puntata. Le previsioni del Fondo Monetario per l'Italia: una crescita intorno allo 0,5% per il 2020, il più basso dell'Unione Europea. La prevede per l'Italia appunto l'FMI, secondo cui il nostro paese deve mantenere l'età del ritiro dal lavoro legata all'aspettativa di vita e assicurare equità attuariale per il pensionamento anticipato, legando strettamente gli assegni ai contributi versati nell'arco della vita lavorativa. A proposito di occupazione, la Whirlpool conferma di voler abbandonare il sito di Napoli e di Invitalia. L'agenzia di investimenti dello Stato è già alla ricerca per conto del governo di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale americana. Whirlpool non torna indietro, conferma l'addio a Napoli, ma accetta di prolungare la produzione fino al 31 ottobre, 7 mesi in più rispetto all'intenzione di chiudere il 31 marzo. La produzione di lavatrici nello stabilimento partenopeo non è più economicamente sostenibile, spiega l'amministratore delegato Luigi Lamorgia al tavolo con i sindacati e il Ministero dello Sviluppo Economico. L'impianto, dice, perde 20 milioni l'anno, ma l'Italia per la multinazionale resta strategica. Il Ministero dello Sviluppo Economico guarda oltre per risolvere la crisi dello stabilimento campano affida Invitalia la ricerca di un soggetto industriale che subentri alla multinazionale americana. Governo e Invitalia chiedono ai futuri investitori un piano industriale solido e credibile che faccia ripartire l'attività produttiva nello stabilimento di Napoli. La selezione dovrebbe chiudersi entro il 20 luglio. Sarà rivolta ad aziende e gruppi nazionali e internazionali non necessariamente attivi nello stesso settore di Whirlpool. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora il discorso, la testimonianza che ha tenuto la senatrice a vita Liliana Segre oggi alla plenaria a Bruxelles, al Parlamento europeo. Ancora oggi, dice qualcuno, nega l'olocausto, ma è impossibile dimenticare il male. Ne ha parlato parlando della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Sentiamo questo passaggio. Ancora si parla di antisemitismo. La gente mi domanda come se io fossi, va bene che sono vecchissima nel mio 90° anno di età, ma non sono quella che sta perché c'è ancora l'antisemitismo, perché ancora c'è il razzismo, ma perché c'è sempre stato, perché era solo, non c'era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo e il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito. Sì, è così. E poi arrivano i momenti, i corsi e ricorsi storici, arrivano i momenti più adatti. Arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile di nuovo far finta di niente, è più facile guardare il proprio cortile, ma è una cosa che non mi interessa, ma perché mi deve interessare e non mi riguarda. E allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti. All'estero, Medio Oriente, il presidente turco Erdogan si scaglia contro il piano di pace di Trump in Medio Oriente. Gerusalemme dice sacra per i musulmani, il piano è assolutamente inaccettabile. Così anche Khamenei, guida spirituale dell'Iran, dice il mondo islamico ne impedirà la realizzazione. Critici però anche i cattolici in Terra Santa che dicono il piano ignora i palestinesi. L'Italia, in una nota della Farnesina del Ministero degli Esteri, dice che accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per favorire il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, tuttavia valuterà con molta attenzione i contenuti della proposta di Washington nella convinzione che la soluzione a due Stati resti la prospettiva più sostenibile e giusta. E ci sarà un'analisi di un grande conoscitore del Medio Oriente qua nel corso di questa puntata. Via libera dal Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Unione europea. I sì sono stati 621, i no 49, gli astenuti 13. I viaggi di Radio 24. E proprio a questo proposito, terza puntata del viaggio su Brexit nella settimana che porterà alla storica uscita appunto della Gran Bretagna dall'Unione Europea a fine gennaio. Oggi affrontiamo la questione dei rapporti commerciali ed economici tra il Regno Unito e l'Unione Europea, sia in termini di impatto sul PIL britannico, sia soprattutto dal punto di vista del futuro partenariato. Rieccoci appunto con il viaggio, vi dicevo, la terza puntata del viaggio per quanto riguarda l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che avverrà a fine gennaio. Da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista dei rapporti commerciali ed economici tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Un gigantesco volume d'affari pari a 341 miliardi di euro di export britannico verso il continente e 428 miliardi di export europeo oltremanica. Sta in queste cifre, racchiuse nei dati ufficiali del Parlamento britannico aggiornati allo scorso dicembre, l'importanza dell'interscambio commerciale tra Gran Bretagna e Unione Europea, che andrà in qualche modo salvaguardato con gli accordi post fase di transizione che scatteranno il 1 gennaio 2021 al fine di evitare una hard Brexit a scoppio ritardato. Come suggerisce Lorenzo Codogno, capo economista di LC Macro Advisors, i contraccolpi comunque vada si sentiranno. Mi sembra di poter dire con ragionevole certezza che di sicuro Brexit sarà un evento negativo per l'economia inglese, ma dipenderà molto dalla soluzione che verrà trovata, se questo sarà un evento solo marginalmente negativo o pesantemente negativo. Per Lorenzo Codogno il settore più esposto oltremanica resta quello dei servizi. Il grosso problema per l'economia britannica, che è prevalentemente un'economia di servizi e soprattutto servizi finanziari, è la possibilità di continuare ad avere accesso al resto dell'Unione Europea senza barriere e senza limitazioni. Il Regno Unito ha un certo potere contrattuale perché allo stato delle cose il mercato finanziario europeo è a Londra. La partita vera si giocherà però da febbraio, quando i negoziati sulla futura partnership entreranno nel vivo. L'obiettivo è arrivare a un'area di libero scambio a zero dazi tra i due blocchi, ma per ottenerla Bruxelles chiede che Londra non si discosti dalle normative comunitarie. In più, come chiosa a Codogno, c'è un fattore tempo. Un anno di negoziazioni per un accordo commerciale è pochissimo, quindi si tratterà di fatto di trovare delle priorità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia la cronaca con la donna uccisa nel Bresciano. Andrea Pavarini ha ceduto e ha confessato di aver ucciso Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico a Bedizzole nel Bresciano. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità nel corso dell'interrogatorio che si è tenuto questa mattina in carcere a Brescia. A farlo crollare sarebbe stato un dato fornito dagli inquirenti, il sangue sulla felpa che indossava sabato sera Pavarini e che è stata trovata a casa dell'uomo corrisponde al profilo genetico della Fantoni. La donna avrebbe rifiutato più volte le sue insistenti avance. A proposito invece della tragedia in cui è morto l'ex campione di pallacanestro Kobe Bryant, solo le impronte digitali hanno permesso di identificarlo ufficialmente. L'ex star dell'NBA, che ha perso tragicamente appunto la vita domenica scorsa nell'incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 persone, dopo un lungo lavoro d'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, ha comunicato di aver riconosciuto i resti del campione, oltre a quelli di 2 uomini e una donna. Rimangono da identificare le altre vittime, tra cui la 13enne figlia Gianna, ed è per le 3 figlie rimaste, Natalia Diamante, Bianca Bella e Capri, che cerca di andare avanti la moglie di Kobe. Vanessa, la 37enne, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma sono alcuni amici di famiglia a raccontare alla rivista People la sua disperazione. Per chiudere lo sport, MotoGP ufficiale, Rossi via dalla Yamaha nel 2021, al suo posto arriva Quartararo. Il prepensionamento dei fenomeni, sottotitolo «Se non ti decidi da solo ci pensa l'azienda». È stato così per Totti e De Rossi, in parte per Buffon, salvo ritorni di fiamma da terza età, e certamente per Del Piero, cui la Juventus consigliò non gli 8 giorni ma gli 8 mesi, annunciando a settembre che sarebbe stata l'ultima stagione del capitano. Lo stesso fa ora la Yamaha con Valentino Rossi, che ha appena cominciato il suo ultimo ritiro prestagionale con i colori ufficiali addosso. Del resto, il 2021 sarà l'anno del gran rimescolamento del mazzo dei contratti dei piloti tutti in scadenza. E alla Yamaha si portano avanti, prolungando quello di Vignales e chiarendo che con lo spagnolo correrà il rampante francesino Quartararo, che per questa stagione sarà ancora nella squadra B siglata Petronas. E il dottore? Posto che compirà 41 anni il 16 di febbraio, vedrà un po' che fare. Anzi, sembra aver già visto, dato che ha detto «voglio essere competitivo quest'anno e poi continuare ancora». Dove? Presto fatto, sulla moto di Quartararo, perché il gran capo Lynn Jarvis ha garantito che per il dottore una Yamaha ci sarà per sempre. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per passare invece al calcio maschile ci colleghiamo con San Siro, con il nostro Dario Ricci per la partita di Coppa Italia Inter-Fiorentina. Dario? Come siamo messi? Buonasera, 33esimo del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Fiorentina, partita dai ritmi bassi, malgrado che l'Inter schieri tutto il proprio potenziale offensivo, a sorpresa, in parte a sorpresa, Conte schiera infatti dall'inizio sia Sanchez che Lautaro Martinez che Lukaku, con Sanchez più in posizione di rifinitore. Finora però l'Inter ha creato poco o nulla in avanti. La Fiorentina si è vista invece al quarto minuto con un diagonale pericoloso di Lirola finito sul fondo. 33esimo di gioco, ancora 0-0 a San Siro tra Inter e Fiorentina. Grazie Dario Ricci, poi ci ricollegheremo dopo per gli aggiornamenti ulteriori. Adesso ci fermiamo giusto per aggiornare chi invece si sta muovendo su strade e autostrade. Tra poco parleremo di coronavirus con un italiano che è bloccato a Wuhan e con il professor Ippolito dello Spallanzani di Roma. Vedo già alcune vostre domande, chi dice per esempio non ho capito la differenza tra un virus e un coronavirus, chi dice ma in fondo si parla di emergenza ma i morti sono pochi, qualcuno dice tanta agitazione per 22 decessi, in realtà sono 126 al momento, sono migliaia gli infettati. Comunque l'OMS stessa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che non bisogna creare allarmismi. Se avete delle domande, comunque pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349 238 6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Molte le notizie come sempre, aggiornamenti in diretta e poi gli ospiti per approfondire tra pochissimo. Roberta Giordano sempre con voi in questa sfida quotidiana nel raccontarvi a fine giornata quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e corro a volte vi mangio le parole, tante sono le cose da raccontarvi. Appunto, tra poco torneremo sul coronavirus cinese, la politica italiana, avete sentito l'appello di Fico al Movimento 5 Stelle, stiamo uniti per Conte Premier, ma domani c'è un vertice di maggioranza con diversi nodi da affrontare. Medio Oriente, il piano di pace spacca il mondo arabo, anche di questo troveremo modo di approfondire. Brexit, oggi è stato il via libera dal Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. La citofonata di Salvini finisce in un'inchiesta interna dei carabinieri, ce ne occuperemo. Whirlpool, la multinazionale conferma l'addio a Napoli. Calcio per la Coppa Italia, in campo Inter-Fiorentina, avete sentito l'aggiornamento. Partiamo allora dal virus che sta creando appunto in queste settimane molta preoccupazione nel mondo, il nuovo coronavirus cinese. In Cina sono 126 i morti, oltre 6.000 i casi di contagio, sono 600 gli europei intanto da rimpatriare dalla Cina. Partirà domani mattina il volo organizzato dall'unità di crisi della Farnesina per rimpatriare i 60 italiani bloccati a Wuhan. La Cina intanto teme per l'economia, le compagnie aeree bloccano i voli, ultime sono state British e Lufthansa, Toyota è interrotto la produzione nel paese, Starbucks, Ikea chiudono la metà dei punti vendita che ci sono in Cina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: fuori dalla Cina abbiamo avuto sinora solo 68 casi di coronavirus, pari all'1% del totale, e nessun morto. E poi domani avrà una nuova riunione d'emergenza per valutare se dichiarare l'allerta internazionale. Mentre un consiglio straordinario dei ministri della salute dell'Unione Europea ci sarà il prima possibile. Intanto sono 9 i casi di contagio di coronavirus in Europa, 5 in Francia, 4 in Germania. Il ministro della Sanità italiano Roberto Speranza terrà domani alle 12 nell'aula del Senato un'informativa urgente sulla situazione del coronavirus. E a proposito del virus cinese, il coronavirus, e delle implicazioni sui nostri connazionali che sono all'estero, in particolare in Cina, vi voglio presentare Michel Talignani, che è rimasto bloccato in Cina, proprio a Wuhan, perché lui è un manager 45enne modenese, che è manager di una nota azienda del settore ceramico, e si è trovato per esigenze della sua azienda andare in Cina, proprio a Wuhan, e lì però il problema è che è rimasto bloccato. Allora lo saluto, Michel Talignani, mi senti? Sì, mi sento. Ciao a tutti. Ciao, ciao Michel. Allora, intanto, da quanto tempo tu sei lì a Wuhan? Io sono arrivato qua il 22 di gennaio. Quindi, diciamo, in piena esplosione di questa emergenza del coronavirus. Come mai, quindi, nonostante fosse ormai conclamata la questione, sei andato comunque in Cina e proprio a Wuhan? Allora, diciamo che il 20 di gennaio abbiamo consultato il sito della Farnesina e anche il sito dell'OMS, e lo davano come rischio molto basso, per cui non c'erano divieti non c'erano divieti a volare Wuhan. Per cui siamo partiti. Il problema sono stati nei 2 giorni di viaggio che si è scatenato tutto. Perché in effetti poi l'OMS, diciamo, a distanza di 1 o 2 giorni ha raddrizzato un po' il tiro dicendo: ci siamo sbagliati, avevamo un po' sottovalutato, non è moderato il rischio, in realtà il rischio globale è elevato. Ma tu ti trovi lì, dicevo, come manager della tua azienda, una nota azienda del settore ceramico, dicevo, perché avete degli interessi lì, di che tipo? Ma noi... l'azienda per cui lavoro fa macchine per la produzione di ceramiche, per cui è stato montato un impianto qui in Cina e noi si era giù per fare i collaudi. Tu non sei però da solo, sei insieme a dei colleghi lì a Wuhan? Sì, sono con altri 4 colleghi. E in questo momento siete in quarantena, cioè siete stati bloccati come un po' tutti i cittadini e popolazione di Wuhan, e non solo? No, Sì, non si può proprio definire quarantena, perché comunque siamo all'interno della zona a rischio, per cui difficile definirla quarantena, anche perché non abbiamo il divieto di uscire dall'hotel. Volendo, noi potremmo uscire dall'hotel, ma è comunque fortemente consigliato, per cui a me va benissimo rimanere all'interno dell'hotel. Quindi è dal 22 gennaio che tu e i tuoi colleghi siete chiusi dentro, quanti sono quattro i tuoi colleghi, siete chiusi dentro questo albergo? Sì, siamo chiusi dentro questo albergo. E diciamo i contatti che avete con l'esterno lì a Wuhan, non so, anche qualcuno della reception dell'hotel, di rivieni di persone, ci sono altri italiani a parte voi colleghi di questa azienda lì nell'albergo? Michel? No, siamo gli unici italiani, ci sono altri europei, ma siamo gli unici italiani. Quindi altri europei, ma no, voi siete gli unici italiani. E l'atmosfera, sì, il clima, sì. Cioè, sono preoccupati gli altri? Che cosa vi dite? Vi scambiate, insomma, qualche parere, qualche sensazione? La preoccupazione più grossa è stato il non sapere quando saremmo riusciti a uscire dalla città, perché la città è andata, il governo cinese non rilasciava autorizzazioni per uscire dalla città, per cui questo creava abbastanza tensione. E poi anche il discorso dell'obbligo delle mascherine che portano tutti. È un po' inquietante come immagine. Ma la portate anche voi la mascherina, Michelle, o no, in albergo? Sì, certo, la mascherina la portiamo anche noi, è obbligatorio portarla a tutti. Il trattamento a tutti gli ospiti dell'hotel. Il trattamento che ricevete com'è? State bene comunque all'interno, al di là della tensione, della preoccupazione, dell'attesa? Sì, all'interno dell'hotel stiamo benissimo, abbiamo tutti i comfort dell'hotel sono attivi, non ci sono limitazioni, quindi. Michel, senti, comunque la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere che domani ci sarebbe i voli di trasferimento dei nostri connazionali dalla Cina in Italia. Tu sei incluso, siete inclusi voi con i tuoi colleghi, o non avete ancora ricevuto una data definitiva? Ma, allora, le notizie sono leggermente differenti, nel senso che domani parte il volo dall'Italia per venire qua, per cui vuol dire che gli imbarchi saranno dopodomani, perché la tratta è lunga, e con noi l'ambasciata ha parlato di un'evacuazione entro le 72 ore. Che sono partite poi in 72 ore, quindi domani il volo per il rimpatrio. Domani sì, è il volo, sì, che viene da voi. In sostanza entro sabato, massimo sabato, evacuazione totale. Quindi siete tranquilli, insomma, io penso che qualche ora ancora, e poi, appunto, visto che il Ministero degli Esteri ha assicurato che sarete riportati tutti in Italia volontariamente, naturalmente. Sì, ma poi devo dire hanno fatto comunque un grandissimo lavoro, perché veramente sono stati veramente tosti a riuscire a farcela con il governo cinese. Bene, allora, insomma, al di là di questo grosso disagio e della preoccupazione, so che c'è tua moglie e i tuoi due figli che ti aspettano a Modena, e ti auguriamo che tutto vada, insomma, nel modo più lineare e regolare possibile, come sembra che andrà. Insomma, un momento particolare che ricorderai, sì, questo. Ci vorrà ancora un po' prima di arrivare a casa, perché comunque arrivati in Italia siamo poi sottoposti a quarantena, certo. Quindi ci vorrà un altro paio di settimane prima di andare a casa, però l'importante è tornare in patria. Certo, intanto tornerete in Italia, poi anche per il bene delle vostre famiglie stesse, insomma, è meglio che ci siano tutte le analisi e i test possibili, certo. Come ha annunciato anche il Ministero della Salute qui in Italia, ieri col Vice Ministro della Salute. Grazie allora a Michel Talignani, buon ritorno, tenete duro che tanto è questione di poche ore, tu e i tuoi colleghi lì da Wuhan. Grazie, a presto allora. Va bene, io vi ringrazio, ciao a tutti. Ciao Michel. Insomma, vabbè, un'esperienza quasi alle spalle. Però a proposito di quarantena, in realtà oggi si sono un po' rincorse varie voci e invece il professor Giuseppe Ippolito, che è un'assoluta autorità nel campo della virologia, dell'infettologia, essendo direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che è una grande eccellenza italiana, ha detto che la quarantena rientro in Italia non dovrebbe essere automatica. È vero, professor Ippolito? Buonasera. Buonasera. È difficile intendersi sui termini. Le persone che rientrano da un paese di questo tipo, come sono sottoposte ai controlli sanitari, esattamente come persone che rientrano da qualsiasi zona di endemia. E in questo caso ci troviamo di fronte a un gruppo nutrito di persone che rientrano uscendo da un paese nel quale esistono procedure di isolamento della zona, e quelle le nostre autorità sanitarie, come fanno altre autorità sanitarie, predisporranno una procedura unitaria che serva a ridurre i disagi per le persone e in ogni caso a tutelare la salute pubblica. Vedevo anche che potrebbero trascorrere gli eventuali 14 o 15 giorni di sorveglianza sanitaria in una struttura militare, circa 60 italiani che insieme appunto a Michel Talignani, che abbiamo appena sentito, dovrebbero rientrare entro 2 giorni, mi pare di capire adesso dagli ultimi aggiornamenti, professor Ippolito. Questo non glielo so dire, dipenderà da come le autorità italiane decideranno, ma sicuramente sceglieranno un luogo che sarà il luogo più confacente e soprattutto più confortevole per persone che hanno già dovuto subire l'esperienza di una città completamente isolata, anche se va detto che le autorità cinesi hanno fatto un'operazione che non si riteneva umanamente possibile, di fare proprio la segregazione spaziale di un'area così grande con tanti milioni di persone. Professor Ippolito, a questo proposito e a proposito anche delle misure drastiche della Cina, delle informazioni fuori dalla Cina per il resto del mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità più volte ha ripetuto in questi giorni che apprezza moltissimo la trasparenza e senso di responsabilità della Cina, però pullulano molte le domande un po' in giro, ma anche adesso qui Effetto Notte, tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS e WhatsApp che arrivano, di molti che sono un po' titubanti, diffidenti, dicono: ma non è che la Cina nasconde in realtà dati più gravi? Allora, i dati sono relativi ai casi confermati, quindi sicuramente ci possono essere casi non confermati, ma una informazione che deriva da modelli di sviluppo di questa epidemia ci portano a pensare che il tempo di introduzione del virus, ovvero sia quando il virus è comparso la prima volta, non possa essere più lungo di un mese prima dei primi casi. Quindi sicuramente i cinesi hanno fatto un grande lavoro, sono riusciti a caratterizzare il virus in tempi rapidissimi e hanno anche distribuito le sequenze. Hanno dato buona prova di trasparenza se il ritardo c'è stato. C'è stato nell'inquadramento dei primi casi a Wuhan, ma questo sarà oggetto di analisi che sicuramente i cinesi faranno prima di decidere poi il prosieguo. In ogni caso la situazione è una situazione severa, come dice l'Organizzazione Mondiale di Sanità, severa è leggermente diverso da grave, ma sicuramente in Cina è estremamente grave, anche perché questo isolamento della Cina ha enormi implicazioni sul movimento delle persone, sui traffici e anche sugli aspetti economici che ne conseguono. Professor Ippolito, molti continuano a chiedere: ma qual è stata la causa? Non è ancora stata accertata se venga davvero pipistrelli, serpenti o da altro, no? I serpenti, abbiamo già tanti serpenti al mondo e sembra che non sia una via adeguata. I pipistrelli sono sicuramente una buona riserva per molti virus e verosimilmente anche in questo hanno avuto un ruolo, ma ci vorranno anni di studio, come è stato per le precedenti infezioni da coronavirus come la SARS o la MERS, e poi alla fine per uno è stato lo zibetto, per l'altro erano i dromedari che facevano da riserva. Professore, Carlo chiede: qual è il test diagnostico, in quanti giorni si ha la risposta? I test diagnostici sono ancora non test commerciali, presuppongono la capacità di effettuare delle PCR con dei reagenti che vengono preparati sulla base delle sequenze che sono state rese disponibili, la risposta sia nell'arco di 24 ore, che non è il tempo totale di esecuzione, ma ci vogliono 24 ore per avere una risposta ed essere sicuri che è quella giusta. Professor Ippolito, lei comunque conferma che in Italia non c'è nessun caso, perché ci sono stati in casi sospetti? In Italia non ci sono casi. E come diceva ieri qui effetto note il vice ministro della salute Sileri, l'Italia è già pronta da molto tempo, nel senso anche l'OMS ha detto l'Italia in Europa è il paese più avanzato con le misure più efficaci di prevenzione. Questo sicuramente, ma non significa che noi non potremmo avere un caso come l'ha avuto la Francia o come l'ha avuto la Germania. Senta professore, adesso sono 5 i casi in Francia. Un ascoltatore chiede, ma qual è la differenza, non ho capito, tra virus e coronavirus, chiede Mauro. Sono tutti questi virus sono tutti coronavirus, è la forma del virus. Le faccio un'ultimissima domanda, poi la lascio andare perché so che è presa, professor Ippolito. Henry dice, dal numero 1500, il numero delle emergenze per questo problema del Ministero della Salute, mi hanno risposto che anche una mascherina antismog può servire. Ma sull'uso delle mascherine, lei sa che c'è una cultura in Oriente di uso delle mascherine sia per proteggersi che per proteggere. Al momento non c'è nessuna indicazione per un paese come l'Italia né a fare incetta né a utilizzare mascherine. Benissimo, grazie professor Giuseppe Ippolito, ricordo direttore prego, scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, buona serata a lei e ricordo che il ministro della salute Roberto Speranza domani alle 12 nell'aula del Senato terrà un'informativa urgente proprio sulla situazione del coronavirus. Vi lascio brevemente, giusto una pausa di riflessione e per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Note oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Tra poco parliamo dei dettagli del piano di pace di Trump in Medio Oriente e delle reazioni. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvisare, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, tutte le sere con voi in questa sfida, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Abbiamo parlato molto ampiamente di coronavirus e gli aggiornamenti sulle ultime fatti di cronaca. L'OMS, che domani l'Organizzazione Mondiale della Sanità farà un'altra riunione per capire se effettivamente l'emergenza sia globale, sia di alto livello di rischio. Abbiamo parlato con, raggiunto in Cina, un manager modenese di un'azienda che produce ceramica che è bloccato lì a Wuhan ed è uno degli italiani che entro 2 giorni, insomma, l'unità di crisi della Farnesina dovrebbe riportare in Italia. E poi il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma, che è un'autorità in questo campo e ci ha dato, insomma, le ultime indicazioni sul virus, sulla malattia, sui rischi e sulla preparazione che ha l'Italia in questo momento. Adesso però ci trasferiamo in Medio Oriente, naturalmente così idealmente, simbolicamente, per tornare a parlare del piano di pace per il Medio Oriente presentato ieri, come aveva annunciato da diverso tempo, il presidente americano Trump insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. In realtà le reazioni non sono state positive, a parte quelle di Israele. Ieri il presidente palestinese Abu Mazen ha subito respinto questa proposta di Trump e oggi parte del mondo arabo si è scagliato contro questo piano. Il presidente turco Erdogan ha detto Gerusalemme è sacra per i musulmani, il piano assolutamente inaccettabile. Il leader spirituale dell'Iran Khamenei ha detto il mondo islamico ne impedirà la realizzazione. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, grande esperto di geopolitica e di Medio Oriente. Ciao Ugo. Buonasera. In verità sarebbero stati critici anche i cattolici in Terra Santa che hanno detto questo piano in realtà ignora i palestinesi. Tu che lo hai letto così scrupolosamente, tutte le pagine di questo piano, che cosa ne hai dedotto? Beh, l'ennesimo furto ai danni dei palestinesi. Non puoi fare una pace quando solo uno dei due contendenti si presenta al tavolo di un accordo che gli altri non hanno nemmeno voluto prendere in considerazione. Sicuramente è più che altro, più che una, come dire, che una rappresentazione di un accordo di pace, sono stati due comizi elettorali. quello di Bibi Netanyahu, che il 3 e il 2 marzo vota per l'ennesima, Israele si vota per la terza volta in meno di un anno, e anche per Donald Trump, si vota solamente il 3 novembre per il prossimo presidente degli Stati Uniti, però è già in campagna elettorale, e si vota anche per una questione a metà fra il, come dire, il costituzionale e il legale, poiché Bibi Netanyahu è stato incriminato per 3 cause di corruzione e, come sappiamo, Donald Trump è incriminato per l'impeachment. Ecco, questo è il quadro attorno al quale c'è un processo di pace per il conflitto più antico, più risolvibile della storia contemporanea. Questa è la realtà. Detto questo, però, io ho letto appunto oggi 181 pagine dell'accordo. È un po' noioso, direi, come lettura. Soprattutto però, lunga, cioè. Grafici, cifre, numeri, perché c'è anche una. Più della metà è in realtà un accordo economico, di pace economica più che politica. I palestinesi sì, subiscono, cioè vengono ridotti, praticamente l'autonomia territoriale diventa molto più piccola, vengono concessi dei territori ai palestinesi nel deserto e tolti invece nella Cisgiordania, dove invece la terra è più fertile. Detto questo, però, la realtà nel mondo, nel Medio Oriente, è diversa da quella di una volta rispetto a 20 anni fa. Nonostante un mediocre piano di pace, nonostante l'ennesimo furto dei palestinesi, non ci risulta dalle cronache che le piazze arabe del Medio Oriente si siano mobilitate a favore dei palestinesi. Gli arabi hanno ben altri problemi prima della causa palestinese da affrontare al giorno d'oggi. Ci sono le primavere arabe, c'è l'ISIS, ci sono le guerre civili, c'è la Libia, c'è la Siria, l'Iraq, l'Iran, e quindi in realtà non c'è più quella mobilitazione di un tempo a favore della causa palestinese. E quantomeno, paradossalmente, Donald Trump, mentre promette mari e monti agli israeliani, al tempo stesso concede ai palestinesi il diritto, sia pure in maniera molto ambigua, di avere uno Stato palestinese. Ti sembrerà banale pensare che finalmente qualcuno concede uno Stato ai palestinesi. Ma in realtà in Israele, in questi ultimi mesi, quando sono andato in Israele così, semplicemente parlare di Stato palestinese ti davano del terrorista, nel senso che la realtà israeliana è molto diversa. Nessuno in Israele vuole uno Stato palestinese oggi, anche se noi invece il resto del mondo lo vuole. Mi dice già tanto che Trump l'abbia nominato. Tra l'altro vedevo che però poco fa è partito un razzo verso Israele da Gaza, nessuna vittima per fortuna, diciamo che quindi il clima non è di più sereni. 30 anni fa sarebbe scoppiata la terza guerra arabo-israeliana per un accordo di pace come quello che abbiamo visto, quella specie di giochino che abbiamo visto a Washington, quella faccia arrogante e un po' banale, un po' mediocre di Donald Trump, che come un bambinone si guardava intorno per dire: sentite cosa, che belle cose che io ho da dire. Ha parlato di un piano epocale. Ugo, ma secondo te è proprio chiusura totale da parte dei palestinesi, del presidente Abu Mazen, o ci sarà modo di continuare a trattare? Abba Eban, che era un famoso ministro degli esseri israeliano degli anni 60 e 70, sosteneva che i palestinesi non perdono occasione di perdere occasione. In un certo senso anche questa volta l'hanno persa, perché succede sempre così con tra israeliani e palestinesi: si fa una proposta, i palestinesi, che sono sostanzialmente, hanno una tendenza, un po' una sindrome da massimalisti, tendono sempre a rifiutare, e facendo un favore agli israeliani. Gli israeliani poi li fregano, perché gli israeliani li spingono a rifiutare e gli israeliani non vanno a vedere le carte, i palestinesi non vanno a vedere le carte, e finisce sempre che poi gli israeliani li fregano. In qualche modo sta succedendo anche adesso con questo piano di pace. Ora, non per tanto per i 50 miliardi di dollari che dovrebbero apparire, che in 10 anni dovrebbero rendere la Palestina una specie di Lussemburgo, tendo a crederci poco. Però almeno, cioè, presentarsi a Washington e dire esattamente perché i palestinesi sono contrari a questo piano di pace sarebbe stato molto più utile che riempire una piazza a Ramallah. Devo dire, Ugo, per chiudere, che il segretario di Stato Pompeo, quindi diciamo il ministro degli esteri americano, ha detto: se i palestinesi hanno una controproposta, l'avanzino se credono. Vediamo se c'è qualche spiraglio nei prossimi giorni. Intanto grazie, Ugo Tramballi. A voi. Ciao, Ugo. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi per continuare ad affrontare i temi primo piano con gli ospiti. Adesso parliamo della citofonata di Salvini che finisce in un'inchiesta interna dei Carabinieri. Raffaella Calandra? Eccoci, sono in casa. Ciao Raffaella, brava. Non vieni giù a portare il gelato, cos'era quella pubblicità? No, ero io che venivo a citofonare. La cremeria. La cremeria. Qui però non si parla di cremeria. E infatti nelle battute di questi giorni sui social si riprende anche quella pubblicità lì. Sì. Ormai qui ci citofoniamo a tutto andare. Senti, però in questo caso, in quella che aveva fatto Salvini, che tra l'altro è stata rimosso quel video da Facebook perché Facebook ha ritenuto che violasse la privacy della famiglia a cui lui è andato a citofonare, sembra che la donna che accompagnava Matteo Salvini durante quella passeggiata e poi la citofonata fosse stata messa in contatto con lui da un maresciallo dei Carabinieri? Raffaella? Sì, e questo è un po', diciamo, l'ultimo elemento che ha fatto aprire anche una prima, diciamo, ispezione interna all'arma dei Carabinieri. Cioè, in sostanza, questa signora, Anna Rita Biagini, che è una passionaria leghista, sarebbe stata messa in contatto con lo staff della Lega e quindi di Salvini dopo una telefonata di un maresciallo dei Carabinieri bolognese di sua conoscenza. Allora, la questione qual è? Adesso, ora che una volta che la notizia sarà di pubblico dominio, l'arma dei Carabinieri, diciamo che sta avviando in via preliminare le verifiche per capire se il comportamento di questo maresciallo sia in qualche modo in conflitto con quello che è la linea dei Carabinieri, dei militari. Qual è il punto? Che ai militari non è consentito alcuna forma di attività di sostegno elettorale, salvo casi, diciamo, in cui ci sono delle autorizzazioni. Quindi bisogna capire se quello che effettivamente ha fatto questo carabiniere, quindi lo chiameranno, gli faranno raccontare la sua versione dei fatti, rappresenti una violazione di questo principio. Tra l'altro poi tutto si gioca sul filo, perché questo militare in quel momento non era neanche in servizio, ma in congedo per questioni sue personali. Quindi l'arma dei Carabinieri non ha ancora aperto un'ispezione né tantomeno un procedimento di tipo disciplinare nei suoi confronti, ma sta acquisendo in via preliminare le informazioni per capipoi se ci possono essere i presupposti per avviare eventualmente un'azione di tipo disciplinare. Raffaella, tra l'altro, prima di chiudere volevo ricordare che Giorgetti, braccio destro di Salvini, in questi giorni sembra che l'abbia criticato per una campagna elettorale piuttosto aggressiva e per, diciamo, gesti come questi della citofonata. Lui nega assolutamente Giorgetti, però in questi giorni ci sarà un vertice della Lega, no? A Milano. Sì, venerdì c'è il Consiglio federale della Lega, che è, diciamo, come se fosse il CDA, diciamo, l'organo a massimo della Lega in via Bellerio, dove si discuterà di varie cose, innanzitutto di una valutazione di queste ultime elezioni, oltre che delle nomine dei vari dipartimenti interni alla Lega, infatti è stato chiamato un po' il governo ombra della Lega, e delle prossime sfide amministrative. Ma di sicuro sarà anche l'occasione un po' per una sorta di resa di conti di linee diverse all'interno del carroccio. Di sicuro Giancarlo Giorgetti è sempre stato la parte e l'anima più istituzionale della Lega, e i rumors dicono che abbia contestato e che contesti a Salvini questi eccessi della campagna elettorale in Emilia, che sono stati anche considerati tra gli elementi che hanno contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia-Romagna, a cominciare dal citofono, oltre a chiaramente al caso Bibbiano. Ecco. Vedremo venerdì cosa succede. Non è comunque messa in discussione la leadership di Salvini nella Lega, però direi proprio di no, assolutamente. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao Raffaella, grazie. Allora, c'è Lidia che scrive tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Cara Roberta, nel 1957 c'era stata l'asiatica con pare 2 milioni di morti. Ora, mi pare strano, nel 1957, non ne ho memoria di questa cosa, non c'ero, però non mi pare. Io facevo la seconda elementare, l'avevo fatta, ma tutto sto panico non c'era, boh, dice Lidia. Però adesso è meglio, insomma, essere vigili naturalmente e apprestare le misure preventive e eventualmente di diagnosi e di cura nel minor tempo possibile, nel modo più efficace. Adesso però ci colleghiamo di nuovo con lo stadio di San Siro, dove c'è il nostro Dario Ricci per la partita di Coppa Italia maschile Inter-Fiorentina. Quale risultato al momento, caro Dario? Ben ritrovati, 51esimo di gioco, Inter in vantaggio per 1-0 proprio sul filo di un primo tempo che aveva fino a quel punto offerto pochissimo, cioè solo la conclusione di destro del terzino laterale sinistro, Lirola della Fiorentina fuori di pochissimo. L'Inter ha trovato il gol, c'è stata una bella percussione respinta dall'Altaro Martinez per Candreva, che a quel punto ha avuto gioco facile a battere Terracciano praticamente a porta vuota, e Inter che ha avuto una buona occasione pochi istanti fa all'inizio della ripresa ancora con Lautaro che di destra ha calciato al lato, e in questi istanti fanno ancora una percussione di Lautaro, chiuso il calcio d'angolo da Salvez. Quindi 52esimo di gioco, 1-0 per l'Inter sulla Fiorentina qui a San Siro. Grazie Dario Ricci da San Siro. Allora, per quanto riguarda l'asiatica, ecco, mi dice Jacopo De Franchi che probabilmente il dato sui morti effettivi è incerto, sicuramente più di 1 milione. Naturalmente speriamo che non si ripeta questa perniciosità, e comunque oggi dovremmo essere un po' più preparati, un po' più attrezzati, più trasparenti, più efficaci, con un'evoluzione anche della medicina, della scienza, che non ha paragoni rispetto agli anni 50 naturalmente. Intanto c'è Franco che dice: sono sempre più convinto che tutte le forze di sinistra devono candidare Liliana Segre alla presidenza della Repubblica per il suo continuo impegno pacifico nel non far dimenticare la Shoah. Voglio vedere se 5 Stelle si tirano indietro, sarebbe un segnale importante, al di là delle forze di sinistra, che tutti insomma non sarebbe male, visto che da tempo spieghiamo anche una donna alla presidenza della Repubblica, Liliana Segre non sarebbe male, anche se lei stessa ha detto di essere piuttosto stanca, ha praticamente 90 anni, anche per questo insomma darà le sue ultime testimonianze in questi giorni, non continuerà più ad andare nelle scuole come ha fatto per una vita per ricordare la Shoah, e comunque rimane naturalmente una grandissima figura di riferimento. Anche in questi giorni molte città e cittadine le hanno dato riconosciuto la cittadinanza. Direi che qui ci dobbiamo lasciare e torno Ratta con la Folgore alle 22.